Giannino e il drago marino. Giannino abitava in un tranquillo villaggio di pescatori dove non succedeva mai nulla di straordinario. La maggior parte della gente lavorava sodo per mantenersi e solo Giannino, che era un pigrone, passava la giornata a leggere storie di draghi. Il suo libro preferito era Tutto quello che dovete sapere su draghi e mostri. Come mi piacerebbe incontrare un vero drago, fantasticava un mattino. Non dovette aspettare molto per vedere esaudito il suo desiderio. Quella stessa notte, durante un violento temporale, il mare inondò la spiaggia e i campi circostanti. E quando la marea si ritirò, lasciò dietro di sé una distesa di fango, legname e grovigli di alghe. Il mattino dopo, Giannino andò a passeggiare sulla spiaggia in cerca di conchiglie, quando ad un tratto vide un grosso cumulo di alghe che pareva muoversi. Lo pungolò con un bastone e un momento dopo correva come un matto. Non poteva credere ai propri occhi. Le alghe lo stavano inseguendo. Dal cumulo di alghe verdi spuntarono una testa di drago, una coda biforcuta e delle enormi ali coperte di fango. Giannino attraversò il villaggio gridando: «Attenti, attenti, c'è un drago in libertà!» I paesani risero, prendendolo in giro. «Giannino, leggi tanti libri sui draghi che ora cominci anche a vederli. Faresti meglio a lavorare invece!» Ma quella notte un orribile drago coperto di fango infilò la testa nella finestra dell'osteria, facendo scappare gli avventori a gambe levate. Il giorno dopo il mostro bruciò tutti i cavoli dell'orto della signora Ciappelli, che per salvarsi dovette arrampicarsi di gran fretta sul tetto della propria casa. Il signor Smorfi poi fu preso da uno spavento terribile quando il verde drago ingoiò tutte le scatole di tonno e di fagioli della sua drogheria, cercando infine di trascinarlo fuori dal letto. Al villaggio ormai regnava il panico. Patrizio, il poliziotto, pedalava per la strada dicendo: «Chiudete a doppia mandata porte e finestre se volete aver salva la vita!» Per sicurezza, alcuni passanti si nascosero nella torre della chiesa. Altri si rifugiarono in un villaggio vicino. Ma Giannino non si nascose. Rimase a casa e decise di affrontare il drago. Sfogliando i suoi libri, trovò un punto dove stava scritto: «Nessun drago riesce a sopportare la vista della propria immagine in uno specchio». Questo gli fece venire un'idea. Dapprima spalancò la finestra della sua camera e appese sulla parete di fronte un grande specchio. Poi spense la luce e attese. Verso mezzanotte il drago arrivò a casa di Giannino. Sputava fuoco e puzzava di pesce marcio. Ignaro infilò l'orribile testone nella finestra lasciata aperta. Nascosto dietro la porta, Giannino accese la luce. Il drago vide all'improvviso il proprio riflesso nello specchio. Lanciò un grido di orrore e con gli occhi spalancati cadde riverso in giardino. Strisciò sulla pancia fino a raggiungere il porto. Si tuffò nell'oceano e nessuno l'ha mai più visto. I paesani uscirono dai loro nascondigli e si riunirono in strada, acclamando e applaudendo la coraggiosa impresa di Giannino, che, raggiante di gioia, venne meritatamente premiato con l'onorificenza di primo uccisore del drago del villaggio. E tutti lo salutavano quando lo incontravano, e nessuno osò più dire che era un pigrone e che avrebbe fatto meglio a cercarsi un lavoro.